mio separarmi da Mimì. Sei un lume così. Già un'altra volta credetti morto il mio cuor, ma di quegli occhi azzurri allo splendor rinnovare il funeral per sempre cambia il metro dei pazzi e la morte tra che lacrime distilla se non ride sfavilla l'amore fiacco e rojo. Tu sei geloso, montata, collerico, lunatico, imbevuto di pregiudizi, noioso, cocciuto. Ma in colere me poveretta. Mimì è ora civetta, che frascheggia con tutti lo scardino di Viscontino e le fallocchio di Triglia. E la sgonnella e scopre la caviglia con un far promettente lusinghier. Lo devo dir, non mi sembri sincer. Ebbene no, non lo son. Sorride rimorso massale né cagion del fatale mal che l'uccide. Yeah. con chi ride. Ah, civetta, imparerai.